africano, clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena. Buongiorno a tutti e tutte, oggi ci troviamo qui a Radio ZM per la prima puntata del nuovo editoriale su Genova 2001 e ci troviamo per fare quattro chiacchiere con chi quelle giornate le aveva vissute in prima persona e chiederemo un po' il percorso che hanno fatto per arrivare fino a lì. Sappiamo che non è mai facile chiedere a chi era a Genova nel luglio del 2001 di parlare di quell'esperienza, ma riteniamo che sia un momento fondamentale della storia dei movimenti e di quello nostrano in particolare. Oggi guardiamo a quelle giornate come uno snodo cruciale attraverso il quale si è articolata la nostra storia più recente, ed è proprio attraverso la lente della storia che vorremmo narrare diverse esperienze e punti di vista, tentando di mettere insieme per provare a superare le memorie soggettive, cercando di non giudicare il punto di partenza di ognuno ed ognuna, ma focalizzandoci sul punto di arrivo. Punto di arrivo che quotidianamente cerchiamo di costruire in molteplici modi e forme nei territori che attraversiamo e in cui viviamo. Ci sembra doverosa, a distanza di 20 anni da quelle giornate, e riteniamo che sia possibile sospendere le divergenze e provare a trasformare in storia quella che fino ad oggi abbiamo chiamato memoria collettiva. Siamo consapevoli dell'ambizione di tale esercizio e di quanto fragili siano alcuni rapporti su quali si basano gli equilibri del movimento, ma siamo altrettanto consapevoli dei molteplici punti in comune attraverso il quale ripartire con una nuova narrazione. E adesso proviamo a contattare la prima ospite di questo speciale. Pronto? Mi senti, Marta? Sì. Tutto bene, Marta? Sì, tutto bene. Ho letto prima l'introduzione, prima di chiamarti. Quindi sì. Se per te non è un problema, andiamo direttamente alle domande. Sì. Allora, innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato di partecipare a questa iniziativa e sappiamo quanto sia impegnativo e doloroso anche in parte per raccontare quelle giornate, e quindi ti ringraziamo immensamente per questa cosa, davvero. Sì, no, io ringrazio voi perché è stato uno stimolo per ritornare a pensare a quelle giornate in una chiave appunto di rielaborazione anche un po' appunto collettiva, per cui credo che questa vostra iniziativa sia un contributo importante per questa ricorrenza del ventennale, quindi in realtà sono io che ringrazio voi. Ah, grazie mille, allora ti ringraziamo e ti ringraziamo. E allora, se ti va, per rompere il ghiaccio, ci racconteresti un po' che tipo di percorso individuale e collettivo ti ha portato a Genova? Un po' così, raccontandoci di che area politica, così un po' che clima c'era. Sì, io ero giovane, all'epoca avevo 19 anni e facevo parte del collettivo della resistenza antifascista, RAFO Milano. E abbiamo fatto un percorso verso Genova con l'area del network antagonista, quindi Cobas, Ascatassuna, Dordoni, insomma quell'ambito un po' legato all'autonomia di classe. Ed è stato un percorso che ha visto tantissime assemblee nazionali di avvicinamento e ha visto soprattutto anche un passaggio nel mese di marzo al Global Forum di Napoli, che fu un'altra iniziativa importantissima, dove si era riusciti, era diciamo un piano più meno internazionale rispetto a Genova, quindi una partecipazione più a livello nazionale, però si era riusciti a convergere verso un obiettivo, attaccare una zona rossa, mettere in campo insomma una organizzazione plurale, collettiva, che aveva comunque già visto in quel momento una repressione molto feroce, di cui però non si era avuta una percezione così forte come poi è stato Genova, dove la cosa si è palesata a livelli esponenzialmente più alti. Però anche all'epoca c'erano state molte cariche, delle torture dentro la caserma Ranieri, quindi il passaggio diciamo del Global Forum spesso non viene ricordato, ma penso che faccia parte un po' proprio di quel stati quell'escalation che poi ci ha portato nelle giornate del luglio genovese. Un'escalation sia a livello organizzativo di movimento, ma sia a livello anche di repressione dello Stato. Quindi questo è stato il nostro percorso. A livello appunto personale, io non avevo tante esperienze, ero giovane, per cui ero molto carica rispetto a quegli appuntamenti dove c'erano anche delle pratiche molto radicali, molto condivise, per cui per me era tutto nuovo, era anche entusiasmante. Ma ovviamente, a proposito di questo, posso chiederti quindi un po' che clima si respirava in quelle giornate, in quei mesi, che aspettative avevate di quel momento? Sì, c'era un grande fermento, era come una grande opportunità in cui ci si andava un po' a inserire anche all'interno di un movimento internazionale che da Seattle in poi aveva saputo anche individuare un nemico all'interno di questi summit e provare appunto a avere un obiettivo molto concreto che era l'assedio, l'attacco, la denuncia rispetto alle responsabilità delle ingiustizie, dello sfruttamento a livello globale che in quei contesti si orchestrava, per cui c'era molto molto fermento, ci si stava proprio preparando a livello di analisi, ma a livello anche di pratiche, a essere presenti in varie forme, con questa identificazione, diciamo, di un obiettivo molto chiaro e con un'articolazione varia, perché la pluralità delle anime che si stavano muovendo con le loro pratiche però verso quello stesso obiettivo comune dava un'idea, diciamo, di forza e di grande partecipazione, per cui era come appunto avvicinarsi a un momento molto decisivo, no, di dimostrazione anche di organizzazione, di forza, anche se poi il livello di minaccia e di intimidazione si facevano sempre più espliciti a passare dall'appuntamento di Napoli, ma anche tutto quel clima mediatico, si erano liberati i posti all'obitorio, Genova si era trasformata in una fortezza con questa zona delimitata, con container, dispiegamenti di forze dell'ordine incredibili, questo rifornimento a livello anche di armi, di mezzi delle forze dell'ordine che in quell'occasione si erano ben equipaggiate, avevano, e quindi c'era proprio questo arrivare a un confronto, uno scontro, comunque ognuno con le sue pratiche, infatti diverse piazze che si organizzavano in autonomia, però con quell'obiettivo chiaro comune, quindi c'era molta molta aspettativa, molto investimento anche, perché comunque eravamo là, noi siamo stati lì dal giovedì fino alla domenica, poi siamo tornati, poi chiaramente l'evolversi della, cioè già diciamo nell'evolversi poi delle giornate la cosa è cambiata rapidamente, nel senso che il giovedì c'è stato questo grande corteo meticcio, appunto anche questa dimensione internazionale, quindi era proprio sentirsi parte di un popolo che a livello internazionale agiva a diverse latitudini e anche sapeva convergere, in questo caso da tutta Europa vennero all'appuntamento genovese, quindi c'era la percezione di una forza, di una partecipazione. Poi appunto il venerdì già subito la situazione è cambiata, il clima si è inasprito, erano stati programmati tutti dei passaggi, dei cortei che non hanno avuto la possibilità di svolgersi perché l'attacco della polizia è stato repentino, per cui io che non avevo neanche tanta esperienza di piazza ricordo di aver perso presto i miei riferimenti e di aver cominciato a muovermi nella città cercando di seguire dei gruppi. Noi eravamo molto in contatto con i tedeschi dell'Antifa che in quel momento per me ad esempio hanno rappresentato un punto di riferimento in piazza per potersi tutelare, perché a questo punto eravamo sotto attacco e chiaramente poi c'era anche un'azione, non è che non voglio fare un racconto vittimista, nel senso che certo siamo stati attaccati ma c'è stata anche tanta reazione, tante azioni dirette comunque portate avanti contro i simboli del capitalismo, le banche, eccetera. Certo la violenza contro le persone che poi ha portato all'omicidio di Carlo da parte della polizia non era una cosa che ci si potesse aspettare, ecco. Quindi in realtà tutta la preparazione che si era fatta, tutta le idee di percorsi, di cortei, di muoversi in diversi punti della città non è stata possibile, perché sin da subito ci siamo dovuti confrontare con questo scontro e appunto poi le violenze sono state tante, sono state ripetute. Io ho assistito anche a dei poliziotti che sparavano al corteo, in quel caso gli spari non hanno prodotto feriti, però c'era proprio questo clima di guerra aperta che in qualche modo, forse ingenuamente, non ci si aspettava in questi termini, ecco. Certo. Almeno da parte mia. Sì, sì, no, certo, anche io condivido totalmente quello che hai detto. E prima di mettere il primo, diciamo, stacco musicale, ti andrebbe di raccontarci un po' che tipo di relazioni intercorrevano tra le varie anime del movimento in arrivo a Genova? Ma ognuno, almeno la percezione che io ricordo che io, che ognuno aveva ben delimitato il proprio spazio di azione, quindi, e di aggregazione. C'erano sicuramente delle differenze molto chiare, anche insomma si dormiva in campeggi diversi, però in qualche modo c'era come se si fosse creata una convergenza rispetto all'obiettivo, ognuno con le sue pratiche, e non ci fosse nessuna volontà di intralciarsi a vicenda. Quindi appunto nel mio ricordo è che noi avevamo i nostri riferimenti, avevamo la nostra piazza, la città appunto è grande, comunque la zona rossa era grande, in altri luoghi si aggregavano altre anime, dai social forum all'area anarchica, però ognuno in uno spazio ben autodeterminato, diciamo, e rispettato dagli altri. Questo, diciamo, è il ricordo che io ho, che poi appunto ognuno poi ha scelto dove andarsi a collocare. Poi nel caos generale ovviamente ci sono stati diversi incroci, però in quel momento il ricordo forse parziale che io ho è comunque di saper convivere in una piazza, cioè non nello stesso luogo, però in una giornata su diverse piazze in maniera, diciamo, rispettosa. Poi quello che è successo dopo invece è stato ben altro. Dopo diciamo quelle giornate di violenza invece purtroppo c'è stato molto conflitto all'interno del movimento rispetto appunto alle varie aree, una messa in discussione delle pratiche, una colpevolizzazione reciproca rispetto alla modalità di stare in piazza, cosa che all'inizio, insomma, nell'avvicinamento almeno io non avevo percepito come problematico, ma dopo con le giornate di violenze è diventato un grave problema e che poi ci si è portati avanti negli anni, che forse in parte ci stiamo portando dietro ancora oggi. Certo, diciamo che questa chiacchierata è anche un po' volta a cercare di non mettere una pietra sopra, ma di cercare di avere una visione più limpida e collettiva possibile per cercare di andare avanti e di creare anche magari quella sinergia che aveva caratterizzato proprio quelle giornate, i percorsi che avevano costruito quelle giornate, diciamo, all'apice della sua potenza. E adesso mandiamo la prima canzone che ha scelto Marta, che è Figli della stessa rabbia della banda Bassotti, e poi torniamo per altre due chiacchiere. Nel frattempo continuiamo a ringraziare Marta per la sua disponibilità. E eccoci, banda Bassotti. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi, porta il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti, con le scarpe rotte quando fischia il vento, come Augusto Cesar al Sandino, José Martí e Camilo Torres. Come chi combatte col cuore la causa del povero contro il civile, la comandante Clelia, Samora Machel, come c'è Farabutto Martì, figli della stessa rabbia, come Sus e i Cenier, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come c'è Farabutto Martì, figli della stessa rabbia. Ed eccoci di nuovo in diretta con Marta e torniamo a parlare di quelle giornate. Allora, a fronte dell'intensità di quelle giornate, ti va di raccontarci un po' di come sei tornata da Genova? Cioè, mi rendo conto che sia una domanda dura e difficile per tutto ciò che è successo, però sì, se c'hai voglia... Sicuramente è stato come... Cioè, appunto, da ragazza giovane a quell'epoca è stato come prendere un pugno in faccia e rendersi conto che non stavamo giocando, insomma, che quello che si stava mettendo in campo era veramente una cosa pericolosa, che aveva procurato dolore a tante persone, dolore fisico, ovviamente per le torture, i pestaggi, eccetera, ma addirittura un omicidio, quindi con tutto quello che ha comportato rispetto a poi alla famiglia, quindi una perdita di un ragazzo. Io ricordo quando siamo tornati al campeggio il venerdì questa notizia, no, che avevano ammazzato un ragazzo, ed è stato come una doccia gelata rendersi conto che effettivamente c'era un prezzo altissimo. E sicuramente paura, non mi vergogno a dirlo, sicuramente c'è stata paura per quello che sarebbe potuto succedere. E infatti poi anche la giornata del sabato, nonostante l'omicidio, nonostante già, diciamo, le violenze del venerdì, non si è rivelata meno cruenta da parte della polizia, quindi è stato un rimarcare questo potere di repressione, di sentirsi comunque che tutto poteva accadere. E ricordo il lunedì sera a Milano un corteo partecipatissimo, migliaia di persone, e questo stupore, questo silenzio in quella piazza, proprio quasi di incredulità e di sbigottimento. Non ci rendavamo ovviamente conto che in quella data è stata segnata un'epoca, perché poi quello che è successo è che è stata segnata un'epoca. Le piazze sono state dominate dalla paura per tanto tempo che succedesse qualcosa, che succedesse qualcosa di così grave. C'è stato poi spesso e volentieri anche, diciamo, tra virgolette, la caccia al black bloc, che un po' è diventato anche, diciamo, un bersaglio, quasi che non riuscendo a reagire verso chi aveva attaccato ed era i responsabili, sono anche diventati chiunque tentasse poi di portare un conflitto che si sentiva di non riuscire più a sostenere, perché a quel punto è stato talmente alto il prezzo da pagare per aver osato portare un attacco a questo simbolo alla fine del G8, che questo abbassamento di toni, questa paura ha veramente dominato e in generale, e sicuramente appunto anche a livello personale, diciamo, quando sei magari giovane c'è un po' di esaltazione, di anche ingenuità, nel fare le cose, l'entusiasmo che muove più che è stato quindi una presa di coscienza molto forte. E sì, e che ci siamo appunto portati avanti poi le piazze si sono anche svuotate, la gente aveva più paura e quindi anche numericamente è cominciato a percepire proprio un indebolimento, perché non c'era più la partecipazione spontanea. Uno prima di andare in piazza magari ci pensava 2 o 3 volte, perché c'era sempre la paura che potesse succedere qualcosa di irreparabile. E la rottura anche dei legami di fiducia tra le varie aree, tra anche le varie persone, per cui sicuramente una grande lacerazione. Ecco, a proposito di questo, ti va di raccontarci un po' come hai vissuto tu questa fase di lacerazione tra le anime del movimento, come ti sei collocato, diciamo, nella classica divisione, sì, manifestanti buoni e cattivi? Sì. Sì, diciamo che noi un po', diciamo, come anche gruppo, ci siamo sempre trovati molto in mezzo, nel senso che avevamo ottimi rapporti con l'area anarchica, ottimi rapporti con l'area più disobbediente, che all'epoca poi c'era il Giro Bulk, e facevamo le cose praticamente con tutti, e quindi abbiamo cercato di mantenere questa caratteristica di trasversalità. Però in qualche modo a un certo punto sembrava ci si dovesse schierare, cioè non hai a che fare con loro, hai a che fare con noi, un po' da tutte le parti, c'era sentirsi un po' incastrato. Poi in qualche modo diciamo che secondo me in parte siamo riusciti anche a mantenere questa autonomia, questa capacità di fare le cose con più persone, di puntare magari all'obiettivo più che all'appartenenza di area. Poi noi avevamo la specializzazione rispetto all'antifascismo, per cui era anche, diciamo, lavoravamo molto su degli obiettivi, su un tema, e questo forse ha aiutato, quindi avevamo anche una visione, diciamo, anche più parziale, no? E questo forse ha aiutato a relazionarsi. Però sì, la difficoltà è stato proprio questo, stare in mezzo, non, alla fine non abbiamo mai preso una parte, e effettivamente non era facile stare nel mezzo, però penso che almeno per noi è stata la cosa giusta, che poi ha un po' anche caratterizzato gli anni successivi, anche il ricordo di Dax, che poi purtroppo 2 anni dopo comunque abbiamo dovuto vivere anche quell'esperienza, che quella capacità di non affiliarsi, diciamo, a un'area specifica, ma mantenere un po' di autonomia e di fluidità. Penso che ce la siamo portata avanti con tutte le difficoltà del caso. Perfetto. E allora io manderei la seconda canzone che ci hai consigliato, che è Urla di Cuba Cabal feat. Acero Moretti, che salutiamo, e poi torniamo a fare 2 chiacchiere. A fra poco. Okay. Grazie, Marta. Con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap. Ultra rap, ultra rap. Urla come megafono dentro alla curva. Urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap. Ultra rap, ultra rap. Urla nella notte, qualcosa qui succede, il mondo non è inquiete, scaglia queste pietre, grida di rivolta, a tempo di rap, la paura del controllo che succede un patatrac, quando il mondo è disperato, quando l'uomo è maltrattato, poi ti chiedi ma chi è stato, cattiva sorte, unisce gli insorti, cantiamo poesie per i morti, rappiamo per i mondi di scorta, disperati piangono in oriente, quando l'urlo di gente terrorizza l'occidente, questa è come una missione che ti porta alla ragione, banditi dall'informazione, massificata di nazione, chi non può parlare, chi può solo urlare, questa è l'arma che ci abbiamo da poter usare, non per farci usare, non per lavorare, come servi all'impero, come ministri all'interno, come schiavi all'inferno, rap da bar, non per le star né gangstar, tratti fattoria delle rime, canzoni di lotta, genere elementare, l'urlo che sbotta. Urla come il megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Urla come megafono dentro alla curva, urla per la piazza con la faccia torva, brucia come grappa e ti colpisce come il gap, ultra rap, ultra rap. Non è un viaggio nell'Olimpo, il futuro appare estinto, se so dell'avvenire il biondo attinto. Nel marasma ti è convinto, remi in barca, marca il punto, tra blindati e camionette, marionette ammazza sette, la pressione e il dinamismo dati dal capitalismo, sono la piaga che ti piega sulla via dell'arrivismo, chi risponde col cinismo, chi ha colpi di qualunquismo. Ed eccoci qua, siamo tornati con Marta per l'ultimo, diciamo, gruppettino di domande. E allora, a distanza di 20 anni ormai da quelle giornate, secondo te ci sono alcuni aspetti sulla quale all'epoca non sei, tra virgolette, stata disposta a cedere a livello individuale o a livello collettivo? E nel caso tu avessi voglia, se puoi raccontarci quali sono questi aspetti. Mi rendo conto che sia una domanda un po' fastidiosa. Sì, io penso che poi alla fine, diciamo, quella messa in discussione proprio del sistema di produzione e consumo, capitalismo, neoliberismo, questo, diciamo, è stato, è la cosa da cui non si può prescindere, quindi come una dimensione non riformabile, non con cui non è possibile una negoziazione, non è possibile una mediazione, ma questo penso che sia, diciamo, la radice in cui, che ci ha portato a Genova e che ci ha fatto comunque crescere e che ci tiene ancora in piedi. Parlo al plurale, ma in realtà sto parlando a livello personale. Questo penso che sia proprio il nucleo che mi porto ancora da quelle giornate. E poi sì, quella forse anche la dimensione proprio internazionale della lotta, per cui saper apprendere e guardare a quello che succede in altre parti del mondo, perché appunto poi il capitalismo è transnazionale e così devono, cioè questo, diciamo, appunto sguardo internazionale devono avercelo anche i movimenti, perché molto si può apprendere. Adesso abbiamo la fortuna di avere in Europa la delegazione di zapatisti, credo che dovremmo molto porci in ascolto, perché hanno tante cose da dire, quindi questo scambio è anche un'occasione, penso che saranno anche a Genova nelle giornate dell'anniversario, e questo. Purtroppo poi è chiaro che le forme della lotta non riescono, non si riproducono allo stesso modo, ma si evolvono, a volte anche si depotenziano. Appunto, prima, mentre andava la canzone, parlavamo che nelle prossime settimane avremo un G20 a Venezia, quindi i ministri dell'economia dei grandi 20 si incontreranno, ed è un summit come poteva essere il G8 all'epoca, nello stesso periodo di 20 anni fa, pochi giorni prima, con Venezia zona rossa, ma non c'è un'oggettiva o incapacità o comunque non condizione di opporsi e dare un segnale forte, unitario contro questo raduno, in cui poi verranno ovviamente prese delle decisioni che ricaderanno sulle nostre vite e non solo. Però mi colpiva molto a livello simbolico anche questa coincidenza di tempo. Dopo 20 anni noi ricordiamo quella mattanza, quelle giornate di grande passione, di grande dolore, e loro continuano indisturbati nella loro gestione del potere. Purtroppo appunto poi questa cosa, ad esempio, sta passando molto sotto traccia, non... Sì, sì. Però purtroppo, ecco, è la realtà, non è che bisogna anche piangersi addosso, però va rilevata quantomeno per esserne consapevoli. Poi probabilmente le forme e le modalità appunto non si riproducono uguali al passato, ma trovano altre forme più collegate a questi tempi. Però mi ha molto colpito questa coincidenza temporale. Sì, è veramente vomitevole questa coincidenza temporale. Sì. Allora, siamo alla fine, ti ringraziamo per la disponibilità e del tempo che ci hai dedicato, e davvero grazie mille. Vorremmo farti... Dimmi. Sì. No, io volevo poi ricordare il ruolo che ha avuto Heidi Giuliani. Ah, certo. Perché penso che questa sia un'eredità che ci ha lasciato Carlo, che cioè sua madre in qualche modo ha saputo poi raccogliere anche tanto di quello che è stato il messaggio di quelle giornate, incarnarlo nel suo essere presenti nelle piazze, essere presente tra noi, essere a fianco delle altre madri che hanno purtroppo vissuto storie simili, e una donna piccola ma pura dinamite, nel senso di forza interiore e capacità anche umana e politica di rivendicare anche la verità, la giustizia per l'assassinio di suo figlio, ma anche la giustizia per diciamo in generale, no? Per tutti i popoli e per tutti gli oppressi. E quindi secondo me, ecco, portiamoci anche sempre nella mente, nel cuore questa figura. Assolutamente, infatti ringraziamo Heidi per l'esempio che ci ha dato e invitiamo tutti e tutte a partecipare il 20 luglio a Genova alle giornate in ricordo di Carlo assassinato dallo Stato. E arrivati a questa conclusione, allora noi mettiamo l'ultimo contributo musicale che ci ha consigliato Marta e lo dedichiamo proprio ad Heidi, alle madri di Plaza Di Maio e a tutte le mamme del mondo. De Ascra. Por los hijos de todo el mundo. En Buenos Aires, solos tristos e escursos, ningún litor de ese oscuro, esa desapareció. Oye, tranques Argentina, los infame dictadura, galo gritan esas criaturas, quiso mortar de tristeza, madre de Plaza de Mayo, que de la línea fundadora, Maiter Mortas Esperanza, el can de su coro tuvo, te vas a volver loca, no soñas tus colores, uno mocatore bianco, romentare. Se calla por el poder, la política y la opresión, porque la memoria nunca se pierde a quien quiere recordar, te lo recuerdan los ojos de quien clama justicia, te lo recuerdan los gritos de noche, despiertan y no te dejan dormir. Y fue atrás Kansas funden al malo a cubano sin tonza. De sus estuis por tu evile, no amasan a esa cara. No un fini ni de líder, un su pitumilia. Et intendes disabilità, solo ha rubato una voto, a isar lacrima e realità, come ser mamma dell'umbra, e la chirca si insiscuro, so scendini pizzo suo. Casa memoria ma l'inganna, l'inganna da chi è? Chereta mentare, obbedienza debita e punto final, son salese in servita, sprobote lavare medaglia, si sporca se lo tria l'esame di squadra del amor, guardia nazionale, tira un ventanaso sotto sol, de chi è oye, metti il reione, son salgidas catenote, ti schitane no. Ed eccoci tornati per i saluti finali e niente, vi ringraziamo per averci ascoltato, ringraziamo ancora Marta per la disponibilità e vi invitiamo a seguire le varie informazioni che escono sul canale Telegram della Radio ZM e per avere informazioni sul prossimo ciclo di interviste. Vi salutiamo e ci vediamo il 20 luglio a Genova. Arrivederci, grazie a tutti quanti.